noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. E tutte le foto che ci sono in giro per Milanello, e tutto quello che è stata la forza negli anni che ho vissuto io, che un po' forse ultimamente si è persa, è quella della storia, di non dimenticare il DNA di questa società. Bisogna avere grande senso d'appartenenza, bisogna partire da là. E con un concetto ben preciso, che per giocare a calcio bisogna far fatica. Per correre durante la settimana bisogna prepararsi, e quella è la consapevolezza. Condizione fisica e preparazione a livello tecnico che tattico. Io oggi non guardo la classifica, io oggi penso che mancano 24 partite, 72 punti a disposizione, e devo vivere la giornata, devo pensare partita per partita. Già bisogna pensare al Benevento come se fosse la finale di Coppa del Mondo, perché per noi è una squadra che ha zero punti, bisogna prepararla bene. E lui la finale di Coppa del Mondo l'ha giocata, ragazzi, non so se ve lo ricordate, ma credo di sì. Rino Gattuso si presenta così al popolo rossonero, alla stampa, a corvi, gufi e cornacchie, e ai cinesi, agli italiani, a tutto il mondo. E a Filippo Galli continuano a scippare gli allenatori della primavera. Beh, però insomma siamo contenti, nel senso che ovviamente poter dare un allenatore che è passato anche per poco dal nostro settore giovanile è sempre motivo d'orgoglio. Poi Rino qui lascia un vuoto, perché io sono qui a Firenze, dove giocheremo oggi la partita di Coppa Italia con la Fiorentina, e i ragazzi hanno subito questo cambiamento, e quindi insomma. Come stava andando Rino? Ti confesso un pizzico di ignoranza. Come sta andando? Come stava andando Rino con la primavera? No, stava andando bene, direi che dopo l'inizio difficoltoso, le prime due gare, poi adesso siamo terzi in classifica dietro a Inter e Atalanta, sicuramente due squadre attrezzatissime che hanno, tra l'altro, investito molto sul mercato. Noi insomma, ci stiamo difendendo e speriamo di continuare. Ripeto, questi ragazzi, Rino è entrato davvero dentro, nel senso che ha trasmesso quello che ha detto anche ieri in conferenza, senso di appartenenza, non che prima non ci fosse, però è indubbio che lui da questo punto di vista ha una grande capacità comunicativa, proprio è dentro in ogni momento, sul campo, fuori dal campo. E questi ragazzi li ho visti davvero un po' così, con qualche certezza in meno, però speriamo che piano piano, insomma, dopo qualche giorno riescano insomma a superare, perché fa parte anche questo, certo, il cambiamento, la capacità di essere pronti al cambiamento, insomma, fa parte anche del loro percorso di crescita. Certo, Filippo, è fin troppo scontato chiederti se riuscirà a trasmettere le stesse cose al piano di sopra, secondo te? Sono convinto di sì, perché lui è quello che abbiamo visto noi in questi ultimi mesi, quello che abbiamo ammirato in campo. Il suo essere genuino, il suo essere diretto, ha messo già in chiaro le cose con la squadra, così ho letto sui giornali, così ho visto ieri, mi ha chiamato tra l'altro per sentire un po' come stesse andando qui a Firenze, quindi insomma riesce ad avere anche un'attenzione per i suoi ragazzi e per il settore giovanile. Io mi auguro davvero che lui faccia bene, perché insomma davvero quello che può trasmettere lui, pochi altri credo possano essere in grado di trasmetterlo, vissuto la storia come ho sentito poco fa, ha vissuto la storia importante di un club, ha vissuto un periodo in cui c'era una cultura del lavoro importante, così come quello in cui giocavo io. Credo che questi siano elementi che debbano ritornare forti, ecco, che non ci fossero con il mister Montella, insomma dobbiamo dare anche atto, insomma, c'era comunque di aver lavorato bene, come sempre paga l'allenatore quando non arrivano i risultati. Comunque, insomma, Filippo, l'ambiente lo conosce, ha carisma, ha personalità, e poi banalizzando non avrà paura a fare delle scelte e a prendere a schiaffoni quando serve, proprio banalizzando, eh? No, no, sì, assolutamente. Poi è chiaro che ha a che fare adesso con degli adulti strutturati, con una certa con un loro vissuto, però anche qui Rino, io credo, ho detto prima, è un istintivo, però sa benissimo che insomma, andare con la prima squadra è diverso che in un settore giovanile. Ha già avuto una certa esperienza in situazioni molto difficili, qui anche dei giocatori di qualità su cui poter lavorare, sa lavorare bene sulla testa, sulle motivazioni, e insomma, questo credo che siano valori ed elementi che certo possono far comodo alla nostra prima squadra, ai nostri ragazzi in prima squadra. Tanto non ti portano via solo gli allenatori, ma anche i giocatori, perché vabbè, Di Cutrone, no, ma la gente rossonera lo vorrebbe vedere sempre in campo a furor di popolo. È un, mi sembra un giocatore con talento e con la testa giusta. E poi oggi leggevo anche Bellanova, Rino se lo porta dietro, e poi mi trucco e vengo a giocare con voi. Veniamo io e Pardo truccati. No, insomma, il gruppo di ragazzi qui è numeroso. È chiaro che Bellanova è un giocatore di talento, che ha corsa, che ha forza, che ha voglia di crescere. Poi lì non dimentichiamo, sono anche Zanellato, che ha 98, e Gabbia 99, che potrebbero essere far parte di questo gruppo. Però ecco, credo che chi andrà in campo oggi in questa partita darà il meglio, perché forse perché magari vuole fare un regalo anche all'allenatore che se n'è andato. E poi non dimentichiamo comunque qui c'è un allenatore, Lupi, che prende in mano la squadra, è vero, soltanto da un giorno, che però l'anno scorso ha vinto il campionato under 16 di categoria, appunto. Io però insomma siamo tutti vicini a Rino, a quello che è al suo staff, perché non dimentichiamo che anche uno staff all'altezza che può sicuramente sostenerlo. Guarda, io mi auguro che comunque si riconosca la quantità di giocatori che il settore giovanile del Milan sta producendo. Ne parliamo da anni di questo, la semina c'è stata negli anni passati, adesso comincia il raccolto, anzi è già cominciato, da Donnarumma, Cutrone, a Bellanova, speriamo, a Locatelli, Calabria, Locatelli a Calabria, eccetera. Insomma, io penso che venga riconosciuto, no, questo, perché un sacco di settore giovanile dell'Atalanta, parliamo un sacco di storici settori giovanili. Mi sembra che quello del Milan stia producendo tanto, non solo allenatori che vengono cittati. Al meglio, perché poi non dimentichiamo che la società ci mette a disposizione tante risorse, quindi noi dobbiamo cercare dal punto di vista della metodologia di fare un lavoro che possa permettere al talento di questi giocatori di esprimersi, come dico sempre. Ed è chiaro che poi è importante il lavoro dello scouting, Rapelli da questo punto di vista è un maestro con tutto il suo gruppo di lavoro, quindi insomma siamo partiti adesso, però anche da quel punto di vista, e speriamo appunto di avere il tempo di poter lavorare in profondità. C'è chi sottolinea anche chi via WhatsApp, chi è andato via come Cristante, ma insomma i nomi sono tanti. Cristante, Petagna, poi ci sono Petagna. Tre ragazzi del 97 in tre squadre di A, c'è Felicioli, che è quello che oggi giochi in Coppa Italia nel derby di Verona, Vido stesso all'Atalanta, c'è Crociata, Crotone, insomma, e poi tanti altri ragazzi. Insomma, siamo, credo, il Milan ha un settore giovanile e ha avuto negli anni passati un settore giovanile che ha prodotto tanto. Chi con più fortuna, chi con meno fortuna, però ripeto, poi è sempre il merito di questi ragazzi che si mettono a disposizione. Poi noi dobbiamo solo, ripeto, creare le condizioni perché loro possono esprimere il meglio. Sì. È arrivato anche il professor Pardo, buongiorno. Sì, stavo ascoltando, buongiorno. Non so se hai una domanda per Filippo Galli prima di salutarlo, perché ha la partita mi faccio andare, gli faccio un grande in bocca al lupo perché ha la partita. Grazie Filippo, ciao Filippo Galli. Abbiamo fatto questa chiacchierata introduttiva su, ma continuano a scippare gli allenatori a Galli, al povero Galli. Facevo notare Brock Inzaghi e adesso Gattuso, ora c'è Lupi, vediamo se lo portano via anche lui, no? Produce tanti giocatori, produce tanti allenatori, diciamo, non esattamente. Però vuol dire sto cercando specchio su cui arrampicarmi, mio caro. Vuol dire ovviamente che comunque poi il Milan nei momenti di difficoltà si affida alla sua storia, diciamo la cosa positiva è che c'è un senso di famiglia, questo sì, ho trovato io lo specchio. Ah, bravo, grazie. Che c'è un senso di famiglia, okay. E questa cosa è positiva, secondo me, in generale, in assoluto, vale per Rino, vale per per quelli che ci sono stati in questi anni, perché vuol dire appartenenza, perché vuol dire che si è vissuto un tempo enorme, bellissimo, di grandi vittorie, quindi questo è oggettivamente un grande lascito, una grande storia. Sì, sì. Però poi il fatto che questi allenatori della primavera vengano cooptati dalla piano sopra, vuol dire che gli allenatori che stanno sopra fanno fatica. Questo è oggettivo. Qui non ci sono specchi. No, qui c'è solo lo specchio dell'ascensore, quello che porta l'allenatore dal piano di sotto a quello di sopra. Senti, fermiamoci un attimo per il traffico, poi continuiamo a chiacchierare anche con gli ascoltatori. 800 24 00 24, numero verde, ovviamente Giorgio De Luca, il nostro dottore, Gianmarco Ferronato in regia, ci sentiamo dopo. Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti convocati. Tutti convocati. Dunque, Pierluigi Pardo, da qualche giorno, da lunedì per la precisione, parliamo intensamente, fittamente, via WhatsApp con Andrea D'Amico, che è noto procuratore, che è stato anche procuratore di Rino Gattuso, e abbiamo deciso di rendere pubbliche queste conversazioni. Buongiorno. Conosce bene Rino e credo gli voglia ancora bene, credo. No? Perché non dovrebbe. Gli voglio sempre bene, sempre. Benissimo, perché comunque l'ho incontrato. Intanto buongiorno a tutti. Ciao Andrea. L'ho incontrato nel 98, quando lui aveva 20 anni, e quindi abbiamo fatto tutta la carriera agonistica assieme, e l'ho incontrato in un albergo di Glasgow con quella che era allora la sua fidanzata, adesso sua moglie, con due magnifici bambini. Insomma, devo dire una carriera vissuta sempre in simbiosi, e sono contento che lui abbia finalmente una grande occasione, una grande responsabilità. Posso svelare, tanto non c'è niente, qua siamo in famiglia. La discussione che abbiamo fatto mille volte con Andrea, e credo il suo punto di vista, che Gattuso, per troppo amore, per troppa passione, probabilmente per l'impazienza, la stessa che aveva in campo, ha accettato in passato delle proposte professionali che non sono all'altezza della sua storia. Credo che Andrea lo confermerà. No, questo senza, voglio dire, ma questo è un fatto normale, anzi questo esempio l'ho usato anche qualche volta parlando con alcuni miei amici di certe cose che non c'entrano niente col calcio. Cioè, uno deve fare delle cose che sono in sintonia con la sua storia, con quello che è, con quello che gli esperti di marketing chiamano equity. Hai ragione, l'abbiamo detto anche Gattuso, ieri. All'Ofi Creta, con tutto l'affetto per Creta o in Ungheria, non è una cosa. Allora probabilmente avrebbe fatto meglio ad aspettare in quel momento lì e aspettare il suo momento. Adesso però veramente, io che mi unisco in bocca al lupo, arriva un'occasione all'altezza della storia di Gattuso, che certamente dovrà dimostrare di essere un bravo allenatore, non soltanto un grandissimo ex campione della storia del calcio. E questo, Andrea, questo sì. Ma guarda, spesse volte abbiamo parlato di queste cose, Pierluigi, e quello che tu giustamente ricollegavi al marketing è quello che secondo me oggi come oggi conta di più, quando tu devi piazzare un prodotto, e siamo tutti un po' dei prodotti, il posizionamento, quando un giocatore fa e arriva ad un posizionamento importante, a un livello importante, così come un allenatore, tu non devi sempre cercare di non perdere quel posizionamento lì, perché comunque in un mercato globale, anche il mercato del calcio è diventato globale, quello che conta è il posizionamento. Prima si parlava di progetto, di queste cose. Mm-hmm. Comunque, sei d'accordo quindi con Pierluigi, no? Perché il posizionamento di Gattuso non può essere l'Ofi Creta, con tutto rispetto, per l'appunto. Ma questo comunque è un grande della storia del calcio mondiale. Io con Rino ho sempre avuto un rapporto fraterno, e a volte tra fratelli ci si confronta anche in maniera critica. Io l'ho consigliato a Zamparini quando lui è andato a Palermo, lui ha fatto una squadra che poi comunque è andata in Serie A, e sarebbe andata comunque in Serie A anche con lui, senza togliere nessun merito a Iachini, che è arrivato dopo di lui, e quindi bastava aspettare un attimino e sarebbe sicuramente riposizionato su un livello perlomeno analogo. Però Rino è un generoso, non riesce a stare fermo, un uomo di campo, e a volte nella vita servono anche delle esperienze che magari non sono del tutto del tutto positive, perché comunque ogni esperienza, se tu hai la capacità di prendere quello che di buono puoi prendere anche da un'esperienza negativa, questo ti fa crescere. Allora, sicuramente in questo momento era quello che serviva al Milan, e con Carlo, con te Carlo, ci siamo whatsappati dicendo che era la scelta ideale in questo momento, perché è inutile, sono d'accordo, Andrea. Un Milan che ha speso così tanti soldi d'estate ha bisogno di riportare una cosa importantissima all'interno di un gruppo, perché nel calcio senza gruppo non fai nulla, lo ha dimostrato l'arrivo di Spalletti, dopo che l'Inter aveva speso, senza, ha dato un'identità al gruppo, un carisma e tutto, e è quello che manca al Milan. No, ma purtroppo loro devono sapere che devono avere un orgoglio, devono sapere cosa significhi portare la maglia di una squadra così importante, e nessuno più di Rino, che è stato a mio avviso il giocatore più mentale, con l'approccio più mentale ad ogni evento sportivo, alla sua carriera, che io abbia mai conosciuto, può dare a loro questo senso di appartenenza, carisma, questo rispetto. Sapete perché? Perché il problema un po' è di tutto il calcio italiano, perché una volta tu mettevi 2 o 3 giocatori stranieri all'interno di un gruppo di italiani che era cresciuto sperando di vestire la maglia della propria città o di una squadra importante, si sentivano orgogliosi, e anche gli stranieri miglioravano e facevano migliorare gli italiani. Adesso sono diventati degli spogliatoi, dove la gente arriva, parte dopo 6 mesi, viene valorizzata. Andrea, non c'è identità. Io paradossalmente penso che per Gattuso possa essere più semplice, sto dicendo una forzatura, quasi una bestialità, possa essere più semplice gestire, allenare il Milan, questi giocatori a casa sua, nel suo ambiente, piuttosto che l'Ofi Creta, dove non conosce nessuno e devi costruirti qualcosa, no? Può essere quasi più semplice. Ma anche perché banalmente Gattuso è abituato nella sua carriera a un livello di organizzazione. Io non so che esperienza, magari l'Ofi Creta è un grandissimo club. Possiamo parlare del Sion, salutiamo gli amici del Sion, ma quelli che vuoi. Voglio dire, quando tu sei Gattuso, sei abituato per 20 anni a giocare grandi partite, a stare in un grande club con un livello di organizzazione enorme, immagino che nelle sue esperienze in Ungheria, piuttosto che a Creta o al Sion, non sia stata per ovvi motivi, per motivi oggettivi, la stessa cosa. Quindi, come diceva Garzia, riportare la Chiesa al centro del villaggio. Nella vita di Gattuso la Chiesa è tornata al centro del villaggio. Adesso sta lui, ovviamente. Io sapete, al di là dell'amicizia, è ovvio, non ha fatto benissimo fin qui da allenatore, però è anche vero che ha fatto proprio per il discorso che facciamo prima, una serie di cose talmente diverse da quella che è la sua dimensione naturale, che secondo me tutto si riazzera ed è l'inizio della carriera di Gattuso. Sono d'accordissimo su questo. Sentiamo Vincenzo, provincia di Chieti, l'ascoltatore, lo coinvolgiamo nella discussione con Andrea D'Amico e ovviamente Pierluigi Pardo. Vincenzo, buongiorno. Buongiorno pure a voi, scusate. Voi siete a parlare da lunedì del fatto di Montella che è esonerato, il fatto di Iachiri che è andato a Sassuolo, non avete detto niente fino adesso, a 3 giorni. Lo diciamo. Aspetta, poi chiudo voi. Sì. Voi dicete settore giovanile, oggi ci sta Juventus Torino, Coppa Italia, primavera. Stasera ci sta Sampdoria Genova, Coppa Italia, sempre primavera. E sabato ci sta Inter Juventus. È possibile che queste cose non le dicete mai? Oggi c'è Chievo Verona. Ho capito, ragazzi, sto scherzando. È incredibile che la Gazzetta dello Sport non abbia aperto sul derby primavera. È incredibile. Poi soprattutto noi abbiamo ora un'ora lorda. Io sto diventando pazzo per far star dentro tutti gli ospiti, gli amici, gli ascoltatori, eccetera. Sto giocando. Tecnicamente farmi fare il mio pippotto impopolare, però spero onesto. Quando fai un programma che è un programma nazionale è abbastanza ovvio, esattamente come sui principali quotidiani italiani, che si parli dei club, dei grandi campioni, delle grandi storie. Il focus questo, è quello, è quello. Il focus è quello, con tutto il rispetto enorme per tu hai citato Sassuolo, Vincenzo, che è una storia bellissima nel nostro calcio e che in questi anni ha fatto delle cose incredibili. E dopo il Chievo, la cosa più straordinaria dopo, cioè, è il nuovo Chievo, no? Quindi non c'è nessuna discussione sul fatto che meritano. Però insomma che facciamo, non so che dire, dibattito sul Milan, chiaro, forse ci chiamano, no, ma poi certo sai, persone, sai, chiaro Pierluigi, ma è così, ma poi normale, è anche è anche compito degli ascoltatori quello, cioè loro compito istituzionale è quello di ricordarci queste cose di cui poi vedi sapete, parliamo, le regole di ingaggio qui sono semplici, se uno vuole chiama vuole parlare di una cosa, parla del Sassuolo con grande piacere, certo, tanto oggi Sassuolo Bari di Coppa Italia non se la perde nessuno, no, tra l'altro. Altro. No, di Andrea? Ma interessante. No, comunque guarda, io penso che poi tutte le cose ci sia un destino, perché racconto una cosa così, che tanta storia e pochissimi sanno. Il Milan era nel destino di Rino, perché quando lui venne, mi ricordo che quando nel 98 mi chiamò David Murray, che era allora presidente di Glasgow Rangers, mi disse, guarda Andrea, mi devi fare un favore, io avevo Porrini, avevo Amoruso lì, è capitano dei Glasgow Rangers, mi devi portare via un ragazzo perché qui Advocat non lo vede, non lo fa mai giocare. E gli ho detto chi è? Si chiama Rino Gattuso, lo dobbiamo vendere alla Salernitana, non riusciamo a concludere l'operazione, e così io cominciai a lavorare per lui. Dopo una settimana, 15 giorni, concludemmo l'operazione con la Salernitana, che però, guarda caso, ritardava a consegnare i documenti al Glasgow Rangers, che all'ultimo giorno il presidente della Salernitana disse, guarda, scusa, non lo posso più prendere, deve rimanere Glasgow Rangers. E io a quel punto lì mi arrabbiai moltissimo e dissi, guarda, non è possibile, devi assolutamente completare l'operazione. E lui a torto collo, insomma, completò l'operazione. Pensa come andò, lui arrivò a Salerno e la Salernitana, che non voleva pagare gli allora 10 miliardi di lire del trasferimento di Rino, ne guadagnò tre volte tanto dopo 6-7 mesi al Milan. Che vuoi fare? I casi della vita, sliding doors o botte di culo, chiamatele come volete, insomma. Andrea, grazie. È la traduzione di sliding doors. Forza Toronto, che stasera c'è la semifinale di MLS. Tra l'altro, tra le altre cose, ma by the way. Magenta non ne vuole parlare. C'è De Luca di là che mi Forza strangola, Toronto. La pubblicità. E la borsa, ciao Andrea, non riesco più a parlare. In bocca al lupo a Iachini, a Toronto, a chi gioca il derby primavera, a Bari e Sassuolo, a Pierluigi Pardo, ma soprattutto a me, a De Luca, che stiamo diventando pazzi. A dopo. Mancherebbero 2 minuti, però mi hanno dato 3 minuti di proroga, quindi posso chiudere alle 23:20. Manca 23:24, quindi vai con calma. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Tutti convocati. No, la stiamo facendo bene fino adesso e vogliamo continuare questa strada. E venerdì è sempre una partita bella e sono le partite così che vuoi giocare. Sarà una settimana lunga, avremo tanti giorni di allenamento per prepararci. Sappiamo che non sarà per niente facile giocare contro il Napoli là, però daremo il nostro meglio come sempre. Non può essere ancora partita di campionato, ma è molto importante, ci teniamo molto e ce la metteremo tutta per portare 3 punti a casa. Decisiva è in Champions, sì, in campionato no, il campionato è importante sicuramente, però mancano più di 20 partite, non può essere decisiva. In Champions invece, per il passaggio del turno e per il proseguo di questa competizione, insomma, sì, lo è. Un po' di voci relativa a Napoli-Juventus, è arrivato anche Marco Berinazzo. Eccoci, buon pomeriggio. Buongiorno, ovviamente c'è sempre Pierluigi Pardo, c'è anche il nostro prossimo ospite che ben conoscete, De Boris Sollazzo, che tra poco saluto, ma dato che sono stato provocato, nove magno, come diceva Alberto Sordi in un americano a Roma, avete provocato nove magno. In questa mezz'ora io, Pardo, Beninazzo e pure Boris Sollazzo parleremo del Pordenone che ieri ha vinto a Cagliari 2-1, passando il turno di Coppa Italia. Chi vuole iscriversi si iscriva 800 24 00 24. Intanto noi vi facciamo sentire l'allenatore del Pordenone, Colucci. Ma le individualità le conoscono meglio i ragazzi di me, perché quasi tutta la mia squadra giocano al fantacalcio e quindi li conoscono meglio loro. Noi abbiamo visto dove sono pericolose nelle ripartenze il Cagliari, e poi Vincenzo sa che queste partite, quando affronti una squadra di categoria inferiore, magari qualche giocatore la prende un po' sotto gamba. Ecco, noi abbiamo lavorato su questo. Noi che dovevamo fare, tra virgolette, la partita della vita, il Cagliari magari non era una giornata top, e poi alla fine arriva il risultato che premia questi ragazzi. Bene ragazzi, adesso apriamo un forum con Pardo Venazzo. No, ma invece vedi, la storia del Pordenone è una storia oggi assolutamente mediatica, perché comunque andare a vincere a Cagliari, poi questa meravigliosa risposta che ha dato Colucci, poi c'è il Cittadella che ha vinto a Ferrara. No, ma il discorso di prima è un discorso di principio. No, sto scherzando. Perché bisogna essere onesti con gli ascoltatori. Detto questo, chiunque vuol parlare di qualsiasi argomento, fosse anche la Lega posto numero, tanti, noi posto numero verde 800 24 00 24. È abbastanza normale che si parli di Milan, che si parli di Napoli Juve in questa settimana. Tu che dici? No, ma sul Lazio di cosa vuoi parlare? Io parlo volentieri del Pordenone. Perché sei un appassionato di cinema. Il Pordenone viene da una piccola tragedia sportiva, che era una semifinale di playoff per la B contro il Parma, in cui diciamo l'arbitro è stato molto fantasioso nei loro confronti e a loro danno, e adesso si godono la discesa a San Siro. Tra l'altro vi invito, io non lo posso dire perché siamo su Radio 24, a cercare il coro dei tifosi del Pordenone, che è decisamente pittoresco, diciamo il coro più rappresentativo. Facciamo così, dato che siamo avanti, ce lo facciamo cantare da Alessandro da Pordenone, che è un ascoltatore che ha chiamato. Hai visto? Alessandro, buongiorno, prego. Buongiorno, buongiorno. Vada con il coro. No, sono stonato, non il coro. No, ma fa niente, anche noi siamo stonati, tranne Pardo che è intonatissimo. No. Come fa il coro? No, vi dico sinceramente, io quest'anno non l'ho seguito molto allo stadio il Pordenone, però lo vedo in TV quando è possibile. E ho chiamato appunto per avere un vostro commento su questa grande impresa di una provinciale, perché siamo una provinciale noi, che ha eliminato squadra di Serie A. Secondo voi potrebbe ripetersi? Sì, sì, no, ma sono storie che bellissime che abbiamo già visto. Novara, San Siro, insomma, ne abbiamo viste abbastanza di queste storie. Non che ci stanchino mai, però. L'Alessandria di Coppa Italia, c'è stato Trapani che è venuto credo con 6-7 mila tifosi, spero di non sbagliarmi per difetto, a San Siro contro l'Inter. No, ma guarda, la cosa del Pordenone ieri è ovviamente una notizia, ed è ovviamente una notizia che prende anche un risalto nazionale, come è giusto che sia, perché comunque vedere una squadra di Lega Pro che riesce ad andare a vincere sul campo come Serie A, ma anche il bello di questa Coppa Italia, se c'è Pordenone legge, quindi voglio dire pensate se si giocasse in casa delle più deboli quanto ci si divertirebbe di più. È vero, hai ragione. Il fascino della Coppa d'Inghilterra, no? Che racconta queste storie di squadre minori che vanno a vincere. Sì, che vanno a vincere, in Francia è successo, eccetera. No, ma questa formula a me piace moltissimo. Ma Bernardino non è Coppa Italia, mi pare, anche se si gioca in casa della squadra più debole, vero Sollazzo e Beninazzo. Realizzare effettivamente un altro miracolo sportivo. Sì. Con una squadra diciamo sulla carta inferiore, con tanti meno soldi a disposizione, che magari va a vincere contro la squadra pluricampione d'Italia. Beh, vedi, comincia a fare l'ironico. Vediamo se anche Sollazzo fa dell'ironia a sfondo meramente scaramantico, oppure noi giochiamo bene, ma conta maggio. Noi per ora ci divertiamo. Insomma, io ricordo sempre che gli juventini hanno detto sempre una cosa giusta, no? Che contano i risultati. Ad ora i risultati, magari per caso, hanno messo il Napoli lì, la Juve un po' più giù. Venerdì io me la vado a giocare spensieratamente, io spero di divertirmi e spero di essere fedele a quello che siamo stati fino adesso, cioè adesso è una squadra bella, divertente, che vince sempre, che vince sempre. Non ho angosce, no, perché per una volta non è un dentro fuori per noi, lo è per altri. Hai capito, Pierluigi, qua non si cava un ragno da un buco, eh? No, dai buchi napoletani non si cava un ragno, eh? Beh, c'è da dire che c'è un po' di stanchezza, diciamo, nei ranghi partenopei, questo, sì, un po' di stanchezza. Poi c'è Mertens che ha un inizio di doppie punte, un disastro, è un casino. Davvero non capisco anche questo. Il problema sulla cresta, che esatto, è il problema sulla cresta. Il gel, esatto. Ha finito il gel buono, è un casino. No, sono molto curioso di capire che succede venerdì, perché venerdì è una di quelle partite, soprattutto in un campionato come questo che vive di pochissime sorprese durante, diciamo, le partite normali, tra le grandi e le non grandi. Gli scontri diretti hanno un peso fondamentale. Poi ha ragione Buffon, Buffon, cioè, perché io voglio Higuain, eccolo là, lo sapevo, io voglio Higuain, guarda, io che lo voglio, cioè, ma non è che scherziamo, che scappa, che si inventa, che è Marchisio, mi sembra un po' la storia di fuga per la vittoria, che si fa rompere il braccio per far giocare Stallone. No, venisse a giocare, noi la vogliamo tutta intera la Juventus, se si va a perdere che vincere vogliamo farlo con la Juventus tutta intera, non vogliamo scuse né in un senso né nell'altro. Non stiamo gufando che lui faccia la vittima, che gli riesce sempre bene, non stiamo gufando minimamente, anzi i napoletani veri tifano perché Higuain sia al centro dell'attacco. Poi se ve la pianta in gol, sarà stato bravo. Insomma, potrà magari. Io mi dissocio assolutamente da quello che sta dicendo Solazzo. Nei confronti di ADL, però sarà stato bravo. Però, sì. Insomma, no, il ragionamento ci sta. Mi permetto di dire, visto che poi la vicenda comunque è di quelle che può anche in qualche modo ingenerare qualche dietrologia. L'anno scorso Higuain ha giocato, c'era in campionato, c'era in Coppa Italia, quindi non è assolutamente, io non ci mancherebbe. Ma no, era una battuta, evidentemente. Ecco, no, però ti fa. Allora, esatto. Immagino che insomma un po' di marchio l'abbia lasciato. No, ma è chiaro che Higuain è un elemento anche proprio giornalistico di questa partita straordinario, no? E quindi credo che sia bello quello che dice Sollazzo, cioè comunque arricchirebbe, perché adesso è tornata una speranza, no? Una possibilità per i tifosi della Juve di vederlo in campo al primo minuto, arricchirebbe certamente questo match, che comunque è bellissimo pure senza Higuain, perché poi è una partita di quelle che sparigliano secondo me il campionato, e che poi arriva per la Juve in una settimana dove poi ci sarà Olympiacos e poi Juve-Inter, cioè, esatto. Io mi preoccupo più che giochi Mario Rui che giochi o non giochi Higuain, questo ve lo dico sinceramente, perché il calcio è bello perché quando Mario si mette tutti con gli effetti però giusti. Sai, in una situazione così la scaramanzia, le stelle insegnano che il giocatore che non deve giocare poi lo operano, poi viene convocato, magari va in panchina col tutore e poi chi lo sa, e poi ha Higuain a Napoli. Senti, ma l'anno prossimo, lo chiedo a Beninazzo Sollazzo e poi magari Pardo perché farà i commenti per il cinema, andiamo a vedere il calcio al cinema e a teatro, ma sul serio, ma che stiamo scherzando? È nuova frontiera dell'idea della Lega Calcio, questi diritti non si vendono, tutti al cinema a vedere le partite. Quindi finalmente teatri cambia il vero senso della parola. È una vecchia idea di Laurentiis, no? Finalmente non fa più i cinepanettoni, farà direttamente le partite, le produrrà, magari con un prequel, un sequel, non so. Non è un'idea nuova, ragazzi, però, cioè, è stato fatto con le partite mondiali e la scena doppia si vede dal cinema. Purtroppo si fa quando il cinema va male, cioè si fa quando quelle sale non fanno abbastanza. Se ci pensate, già vediamo i concerti al cinema, ci sono i concerti live, gli eventi. Purtroppo quando un'arte, lo dico insomma da direttore di festival, da critica, comincia ad essere industrialmente penalizzata, si cerca di utilizzare le strutture in altra maniera. Può essere pure interessante, io temo però fortemente proprio per la salute di quei cinema. Voi immaginate, che ne so, io e un altro tifoso, un altro giornalista, che vediamo la partita insieme in un cinema, magari può essere pericoloso, sì. Però insomma può essere affascinante, ma non credo che prenderà piede. Ci sono già altri luoghi di socializzazione, cinema, no? Esatto. C'è lo stesso concetto, però insomma la Lega secondo me deve fare qualcosa di interessante, nel senso che se usciti da una logica di duopolio come era 3-4 anni fa, dove comunque al netto delle polemiche è stato portato avanti un grande risultato economico, e adesso è giusto che la Lega si interroghi, ma questo era giusto anche prima, no? In generale, sempre in assoluto nella vita ti devi interrogare su nuove nuovi luoghi e nuove possibili fonti di guadagno. Cioè, capire se questo tipo di intervento possa essere accessorio al grosso delle risorse che arrivano dalle TV pay, oppure se questa cosa qui in realtà nasce dal desiderio di diversificare per mandare un messaggio alle pay. Questo non lo so, forse Devinazzo sa qualcosa di più. Adesso infatti lo interroghiamo subito dopo il traffico, però Solazzo ha parlato di un prodotto cinematografico in crisi e necessità di usare le strutture. Mi sembra che questo discorso, così anche croce, possa essere applicato e praticato anche per il calcio italiano pari pari. Traffico. Una puntata davvero eccitante. Piena di sorprese, piena di colpi di scena, e non è tutto. C'è ancora un'ultima grande sorpresa. Tutti convocati. Tutti convocati. Proviamo a riannodare questo filo calcio, TV, teatri, cinema, nuova Lega, che succede? Bene, lo stallo istituzionale che si è creato, e quindi dobbiamo capire, stiamo seguendo proprio in questi minuti, in queste ore, quello che succede in Lega, se si riesce ad eleggere finalmente i nuovi organi, un presidente, un amministratore delegato che dovrebbero dare appunto questa impronta manageriale. Si parla di Giuseppe Vegas, lo sappiamo. Sì, in realtà non è che sia graditissimo, diciamo, da tutta quella parte di tutto il consesso, diciamo. Sì, tutta quella parte, diciamo, di club che si autodefinisce più riformista e che vorrebbe altro. Ma in ogni caso, questa situazione che si è venuta a creare dopo l'eliminazione dell'Italia è ancora più paradossale, perché appunto in questi giorni avremmo dovuto vedere il varo del bando che è pronto, quello dei diritti TV. Doveva partire quest'asta cercando appunto di arrivare a quota 1 miliardo per superare il 1,2 miliardi del precedente bando, mettendo insieme quelli esteri. Di fatto è stato tutto rimandato a metà dicembre, e poi l'asta dovrebbe chiudersi massimo entro metà gennaio, perché se non dovessero essere soddisfacenti le offerte si dovrebbe varare quel piano B, quel canale della Lega, che però, insomma, come capisci, non è una cosa semplice da mettere in piedi. Sì, no, ma ragazzi, comunque, per il momento, diciamo, la novità che emerge è che la parte più consistente di modifica rispetto ai bandi di giugno, quelli che praticamente sono andati deserti, è relativa alla trasmissione web, le trasmissioni web. Prima c'erano due pacchetti da 4 squadre, ora ce ne sarà uno da 8 squadre, con 7 squadre buone, per intenderci, e non più 4 squadre buone, il che dovrebbe forse spingere qualche soggetto. All'epoca c'era stato questo soggetto americano che si chiama Perform, che aveva offerto quasi 100 milioni, insomma, l'idea di ottenere almeno 200 milioni da questa voce, e poi il resto dividerlo tra Sky e Mediaset, a meno che non dovesse entrare qualcuno. Come capisci, insomma, siamo però in alto mare, perché se si dovrà aspettare metà dicembre e poi provare a capire a Capodanno chi si occupa di fare le offerte. In alto mare con tutto, anche perché se è una situazione da commedia all'italiana, che Solazzo conosce benissimo, con questa situazione in Lega Calcio, gli stati generali aperti per praticamente una settimana, e speriamo che succeda qualcosa, che Dio ce la mandi buona. Ma scusa, l'altra volta, quanto siamo in ritardo? Questo è il triennio 2018-21, all'epoca della vendita del triennio 15-18, diciamo un anno prima era già stato tutto definito, ora siamo a meno di 6 mesi, insomma, e non sappiamo ancora bene chi dovrà trasmettere. Chiaro che questo facilita il mantenimento dello status quo, perché alla fine, se un soggetto nuovo deve entrare in un mercato e conquista un certo pacchetto, poi deve anche implementare una certa infrastruttura tecnologica. Non ci sono i tempi tecnici. Diventano sempre più. Non ci sono i tempi tecnici, perché io, Genta e. Assolutamente no. Assolutamente possiamo farci una TV. Chi parla di Amazon, Facebook, cioè di quei soggetti che effettivamente stanno facendo incetta di diritti TV in tutti gli sport, che stanno puntando fortemente su Premier e Liga, e ai prossimi giri molto, vediamo. Molto preoccupante. E da noi capiamo. Sappiamo che la situazione, insomma, ci porterà frutti molto molto positivi, come alcuni si aspettano. No, ma dicevo che in questa commedia italiana c'è un presidente del CONI che dichiaratamente tifa contro la soluzione della rebus della Lega entro l'11 dicembre, così potrà commissariare la Federcalcio con tutti gli scenari. Tra l'altro, che ne posso dire che però veramente noi siamo in mano a una quantità di persone che fanno del fallimento il loro, la loro stella polare, perché se io penso che Malagò viene visto come il salvatore della patria ed è uno che è riuscito a non portare a casa delle Olimpiadi che erano quasi già portate a casa, poi anche non solo per colpa sua, che Talecchio è ancora il mastro dirigente ed è uno che è riuscito a fare sostanzialmente male quasi tutto, e quel poco che ha fatto non è riuscito manco a farlo vedere perché appunto ha detto e fatto cose incredibili. Cioè abbiamo proprio un problema di classe dirigente. Quando ci lamentiamo dell'Italia fuori dai mondiali, quando ci lamentiamo di uno sport così scarso, noi non abbiamo altro che una classe dirigente simile a quella che abbiamo nella politica, nell'economia. Beh, sarebbe sorprendente fosse il contrario, no? Esatto, cioè, per anni abbiamo vissuto con uno sport che era migliore di noi. Sì, sì, ed essendo bravi in diverse discipline, questo va sottolineato, perché non è che in altri paesi magari primeggiano in alcune discipline, però è raro trovare un paese come l'Italia che riesce a primeggiare in così tante discipline, ma qui stiamo andando sulla filosofia sportiva. Scusa, solo sulle Olimpiadi è stata fatta una scelta politica, tra l'altro rivendicata da più parti, quindi assolutamente legittima da parte insomma del partito e del governo che governa Roma. Quello francamente, cioè, faccio fatica a seguire. Ma stiamo parlando di un dirigente che non è che ha fatto vedere chissà che cosa nemmeno per i mondiali di nuoto, cioè siccome in un mondo di ciechi beato chi c'ha un occhio, cioè siccome Malagò c'ha un occhio allora siamo entusiasti, però il problema è che abbiamo proprio un problema di classe dirigente che è vecchia e che non è capace di guardare oltre. Cioè noi dobbiamo pensare a svecchiare tutto. Non possiamo continuare a far comandare il ballo da questi personaggi qua, ma non però, perché non siano capaci, ma perché sono stati sorpassati dagli eventi. Guarda, dal mondo. Mio caro, adesso purtroppo devo chiudere perché qui ho la solita ghigliottina del tempo. Vabbè, però io ti dico che da quando ero bambino e sono il più vecchio della combricola qua, che sento questi discorsi. Sono il più vecchio della combricola. Voglio gente presidente della FIGC. Eccola, sì. C'è il posto di uno, perché poi voglio dire che adesso io sul mio comodino ho i veri padroni del calcio, che è un dio di libro. Cioè se qualcuno ragionasse pagine forse si farebbe meglio. Vabbè, ti lascio Berinazzo a fare presidente della Federcalcio, io vado a fare presidente della Federcalcio. Dove andiamo, De Luca? In Giamaica, giamaicana, e rilanciamo il calcio in Giamaica. Va bene, non ne hanno bisogno. Allora siamo inutili. Ciao, Marco Verinazzo, Pierluigi Pardo, Boris Sollazzo, Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato. In regia domani alle 2. Ciao, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti.